9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon venerdì 20 di aprile, un augurio a Sara, questo è il nome che si festeggia oggi. Devo dirvi la verità, la decisione è stata obbligata di fronte alla quantità di lettere che è l'iniziativa straordinaria che abbiamo lanciato in questi giorni per dare ascolto agli imprenditori, agli artigiani, ai commercianti, alle partite IVA in difficoltà travolte dalla crisi, all'indirizzo, lo voglio ripetere, disperati mai @24.it. Il numero di lettere è stato tale che ho dovuto chiedere, per spirito di responsabilità, per dovere nei vostri confronti che scrivete e anche per aprire un dibattito franco aperto con tutti i nostri altri ascoltatori, dire che sospendo per qualche giorno almeno i temi e gli ospiti ordinari, che pure faticosamente tentavo di infilare un po' a salsiccia con qualche protesta ogni giorno, oltre alla lettura di qualche messaggio che ci è arrivato, perché la mole di testimonianze che arrivano e di racconti di disperazione, in taluni casi esplicita e in taluni altri di preoccupazione molto forte, è tale che ho detto ragazzi, io per il momento sospendo. Naturalmente mi rendo conto di fare un ulteriore passo dopo mesi e mesi di DORS verso le critiche di coloro che sostengono che sono diventato un iperpessimista oltranza, che non fa parte della radio di sistema delle imprese, della più grande associazione di impresa. Tra l'altro auguri a Giorgio Squinzi, che ieri ha vinto meglio di quanto non avesse fatto al primo round solo sul nome, ma col programma e la squadra ha preso 2/3 dei voti in giunta, e quindi a fine maggio l'assemblea sarà il nuovo presidente che succede a Emma Marcegaglia. Alcuni sostengono che non fa parte dello spirito, per così dire, di squadra questo essere così pessimisti. Mi accusano di avere un po' tirato troppo Radio 24 su temi troppo oltranzisti, da fine del mondo, da temi spengleriani, per così dire. Io non penso che sia così. Se c'è una cosa, anzi, che mi colpisce del nostro paese, è il non far finta di non vedere la gravità di una crisi, che è una crisi di sistema, sì, mondiale, ma è una crisi italiana che viene da prima. E occuparsi del tirare a campare, e che ne so, inventarsi la cosa di raccontare oggi che l'IMU sarà solo per un anno, e quindi ma solo per un anno, ci credete voi per un ordine del giorno, perché pare che sia passata la tesi del segretario del FAN? No, non ci credo, perché la realtà è che facendo finta di non vedere e rinviando e dicendo di volta in volta che è tutto necessario ma pro tempore, ecco, questo è esattamente il quadro di un pessimo medico. Ci abbiamo un tossicodipendente malato grave, lo Stato, e i medici pietosi che di volta in volta, sia per la politica che ha paura delle elezioni, sia perché i tecnici dicono che non hanno il mandato della politica, rifiutano di sottoporlo a una cura seria. Ma la cura seria, quella agli italiani sì, quella invece sempre, alle imprese sì, ah beh, a loro certo, ai lavoratori sì, ah beh, a loro poi stracerto. Ecco, questo è il divario di fronte al quale un paese di decennio in decennio perde la capacità di essere consapevole sui guai del suo apparato pubblico, si divide su i residui fattori positivi di questo apparato positivo, che invece oramai oggi sono strepitosamente in minoranza rispetto alle conseguenze negative che esso esercita per il suo peso, per la sua intermediazione, per come è radicato in oltre il 50% del PIL la bassa produttività, per come è radicato un'economia relazionale, finti prezzi, finte aste, finte gare per gli amici per gli amici, per come è radicato la faccia di tolla di chi dice che i diamanti, i lingotti d'oro fanno parte dell'ordinaria amministrazione dei partiti, per chi fa finta di non conoscere gli arrestati nei consigli regionali e dice che non ci andava, non li ha mai visti e non sa da dove vengono centinaia di milioni di fondi neri. Chiaro che mi riferisco in questo caso alla Lombardia, e così via. Cioè, la distanza è tale che qualcuno oggi apre il giornale dicendo PDL è lo strappo dei senatori, perché Pisano e altri 28 se ne vanno, minacciano. Ma con tutto il rispetto per Pisano, che è un galantuomo, ma chi se ne frega rispetto a quello che succede? Cioè, è una vecchia maniera di vedere i problemi con cui sono alle prese milioni e milioni di italiani. Temo invece, e per questo difendo, che dare ascolto a chi e disperato non solo a chi si suicida per ingigantire il fenomeno, noi vogliamo che cessi questo fenomeno, oggi ve ne parleremo a lungo, implicherebbe per esempio una cosa, la butto lì e do uno schiaffo istituzionale. Ci ho pensato ieri vedendo l'accorate esequie del giocatore del Livorno che ha fatto questa fine tragica per un difetto cardiaco, pare morto in campo, certo una cosa terribile. Allora ho visto la corona del capo dello Stato e naturalmente non ho potuto che apprezzare la sensibilità del capo dello Stato per questo. Ma perché per tutte le morti di lavoro allora? Perché per tutte le morti, suicidi di impresa? Perché non c'è una corona del capo dello Stato anche per loro? Vedete, non voglio fare demagogia, è una questione di sensibilità, di occhi e orecchie. Risentiamo le parole di Monti, ce l'abbiamo il file, rimandiamolo in onda. Il compito di questo ristabilimento di un'Italia capace di crescere è appena cominciato e abbiamo voluto evitare e ci battiamo ogni giorno per continuare ad evitare un drammatico destino come quello della Grecia. Vedevo delle cifre in questi giorni di un bilancio della devastazione che la crisi ha portato alla Grecia, anche là, molto più che in Italia, certo, per gravissimi errori delle politiche e delle condotte del passato. Ci sono stati tagli enormi nel numero dei dipendenti pubblici in questi ultimi 2-3 anni a seguito della crisi. Ci sono stati 1725 suicidi. Queste sono le conseguenze veramente drammatiche delle crisi e questo è quello che in Italia in condizioni molto difficili stiamo cercando di invertire. Allora capite che qui il discorso di Monti è quello di attribuire alla Grecia tutte le conseguenze negative del caso, compresi i suicidi, nel tentativo di dire che in Italia sì, per qualche anno dovremo un po' tirare la cinghia, ma insomma, per carità, niente di paragonabile, è ovvio che niente di paragonabile, ma perché le determinanti delle nostre economie sono molto diverse. In realtà la gravità del peso dell'intermediazione pubblica nell'economia italiana è significativamente del tutto analoga a quella greca. È inutile far finta di non vedere che, malgrado il miracolo di un export manifatturiero che resta in valori capaci di eguagliare i picchi pre-crisi, malgrado 22 punti sotto rispetto ai volumi che si producevano in Italia, e poi per tutto il resto siamo in condizioni che i costi pubblici, non gli sprechi, i costi pubblici, gli sprechi dà l'idea alla gente che si possa far finta di tagliare qualche cosa che non è coessenziale a come è organizzata la pubblica amministrazione, al contrario è per come è organizzata che va rivista dalle fondamenta, che aveva bisogno non di un medico pietoso ma di uno capace di impugnare l'accetta da una parte e il bisturi dall'altra, perché bisogna usare misura oltre che determinazione per individuare 5, 6, 7 punti di PIL che in 3 anni si possono benissimo ridurre di spese correnti. Lo abbiamo detto mille volte, come abbiamo fatto mille volte gli esempi, se lo sappiamo noi perché non lo fanno loro, dicendo che il debito si abbatte con gli attivi patrimoniali e con le cessioni patrimoniali, se lo sappiamo noi che ci limitiamo a fare insegnamenti a contratto, non siamo ordinari, non siamo ex rettori, non siamo presidenti di università, perché non lo fanno loro, che dicono anche di non volere poi proseguire politicamente alle elezioni, perché non privatizzano, perché non cedono, perché non riportano al conto economico e l'attivo patrimoniale, perché fingono sempre di dire che è per colpa di qualcun altro, che fanno solo la cosa più facile, prendere dove è più evidente, aumentare le tasse e così via. Questo è il motivo, secondo me, che ha peggiorato ulteriormente l'atmosfera rispetto a prima. Sì, voglio dirlo, rispetto anche ai governi Berlusconi. Berlusconi mentiva quando diceva che la crisi non c'era e sbagliava. Diceva che i ristoranti erano pieni, che le autostrade erano piene, eccetera, eccetera. Era una menzogna dal punto di vista economico infondata. Ricordo che litigavo all'epoca, scrivo sul libro con Feltri che diceva: ma la crisi non c'è, non esiste, e così via. Però tutto questo aveva un effetto ridicolo quanto volete e che naturalmente a molti di voi faceva venire l'orticaria, perché diceva: ma guarda questo buffone che racconta palle. Contribuiva in una parte d'Italia, quella che credeva Berlusconi, al sostegno della fiducia. E la fiducia è un meccanismo particolare, non bisogna tentare di pomparla quando i dati fondamentali vanno giù, come era in quegli anni di crisi. Quindi io per questo dicevo: Berlusconi sbaglia. Sta di fatto che però da che c'è questo governo la fiducia, invece che alzarsi, è durata poche settimane l'effetto, poi è crollata. Si vede negli indici PMI delle imprese, negli indici degli acquisti, negli ordinativi. Non è colpa, non sto dicendo che è colpa di questo governo, però la sottovalutazione di una cura tutta tasse in più a me sembra incredibilmente evidente. Comincio a leggere, perché tanto a me mi ascoltate tutti i giorni, ma il problema è invece quello di ascoltare chi ci ha scritto. Allora, Lorenzo Villa, uno spedizioniere, titolare di un'ex casa di spedizione internazionale nata nel 1966 a Genova e passata di padre in figlio, non senza attraversare le più brutte crisi portuali genovesi e le varie crisi economiche che ne avevano ridotto negli anni le forze sia operative che finanziarie. Con sentenza 7 aprile 2011 il Tribunale di Genova appunto ha deciso il fallimento su istanza di me stesso e Lorenzo Villa che ci scrive, presentata perché non potevo più proseguire avendo esaurito tutte le mie forze economiche spese per evitare quello che poi si è rivelato inevitabile. La mia azienda era un'impresa individuale, per cui il fallimento è un fallimento personale che va a toccare ogni bene da me posseduto, anche se in effetti per poter resistere avevo già dovuto abbandonare casa, in affitto peraltro, macchina, scooter, tutto. Sono divorziato, due figli, 21 e 17 anni che vivono con la madre che hanno dovuto subire a loro volta le conseguenze del mio personale disonorevole fallimento. I motivi per cui sono stato costretto a portare i libri in tribunale possono essere facilmente immaginati e sono stati supportati dalla chiusura immediata, dall'oggi al domani, del fido concessomi da un istituto bancario che mi ha messo naturalmente in ginocchio costringendomi alla definitiva chiusura. A questo punto la mia storia è simile a quella di migliaia di altri, ci scrive Lorenzo. Purtroppo per chi fallisce e non lo fa per potersi godere il frutto di ruberie perpetrate negli anni con azioni illegali, truffe, ragine, corruzione così varie, non c'è via di scampo, perché è tolta per sempre la possibilità di accedere a qualsiasi tipo di affidamento, per cui chi come me ha superato i 50 anni e non riesce a trovare un'occupazione può avere la possibilità di avere una nuova attività facendo tesoro degli errori inevitabilmente commessi in precedenza, perché io lo dichiaro, li ho commessi, non voglio fare la parte della vittima, li ho commessi, ma posso ricominciare? No, ci dice Lorenzo. Io da un anno che cerco assolutamente di trovare un qualunque lavoro che mi permette di andare avanti. Ed è un anno che non ho trovato assolutamente nulla. Mando e presento personalmente decine di CV, faccio colloqui, ma 53 anni sono troppi, come troppa è la mia esperienza, e troppa è la paura di assumere un vecchio, lavorativamente parlando. Io a molti li capisco pure che mi dicono di no. Per carità, ci sono fin troppi giovani a spasso, e io mi sento come uno che vuole levare il loro futuro quando io ho sbagliato e invece ho vissuto. Ma mi domando, perché non una valutazione, fallimento per fallimento, in modo da esaminarne le cause, determinare responsabilità penali? Perché non una norma nuova che consenta di ripartire a zero dopo le giuste conseguenze pagate, come per esempio avviene in altri ordinamenti come negli Stati Uniti, dove il fallimento personale c'è, come è previsto quello del fallimento delle imprese che possono ripartire? Perché non si fa questo e perché non si parla mai di questo, che è una possibilità per rimettere in condizioni almeno di provare a vivere gente come me? Perché non far sapere a tutti che alla mia età non ho più nulla? Sono ospitato, aiutato economicamente da amici, dipendo dalla loro buona volontà, parenti che non potrò mai più risarcire perché non riesco ad averne la possibilità. Cosa devo fare? Mi vergogno di far sapere a tutti che sono dimenticato e che la colpa è anche mia, e che però come posso fare per superare il muro che mi impedisce di avere alcun affidamento, linea di credito, conto di credito, conto corrente, carta di credito, eccetera, eccetera. Ecco, la lettera è ancora molto lunga. La conclusione di Lorenzo Villa è: ci sono enormi problemi, lo so, ma per me il mio è insormontabile. E di fronte a un problema insormontabile, quando ci si sente ladri di futuri altrui e distruttori del passato proprio e senza più una faccia di fronte ai propri figli, voi capite, conclude Lorenzo, che prima di dire alla gente non fate gesti estremi, dovreste capire che per ciascuno di quel gesto estremo c'è una vita intera, non di vittime perché gli altri sono cattivi, ma magari molto spesso di errori banali che però messi in fila con le nostre leggi e i nostri ordinamenti ti impediscono di tirare sulla testa fino al punto tale in cui senza forza la testa la lasci giù. Lorenzo, che ti devo dire? Io leggo e ti dico che la testa non la devi tirare giù, però la tua storia è la storia di tanti. Poni un problema serio Ecco, la possibilità dei fallimenti individuali e di un ritorno sulle leggi del fallimento aziendale, come consentito in altri ordinamenti, che non abbia conseguenze permanenti nell'agibilità bancaria del soggetto, una volta che ovviamente sia ripulito dalle conseguenze debitorie precedenti, secondo me, dalla lettera di Lorenzo, è una cosa su cui riflettere molto attentamente. Cominciamo con delle telefonate. Donatella ci chiama da Reggio Emilia. Prego, Donatella. Buongiorno dottore, intanto complimenti per la trasmissione, anche se è banale il discorso, ma io sono una dei tanti disperati e penso che in questo momento la vostra trasmissione sia quella che ci è più vicina. Parlo al plurale perché siamo in tanti veramente. La mia storia è una storia di 30 anni di imprenditoria, lavoro assieme a mia figlia con una piccola azienda metalmeccanica. 4 anni fa ho messo in ipoteca la mia casa, comprata con tanti sacrifici, per tenere in piedi l'azienda. Data l'età mi è stato fatto un mutuo capestro che io tutti i mesi veramente faccio fatica ad onorare, decurtandoci, prelevando dal conto dell'azienda e mia figlia ed io solo i soldi strettamente necessari per mangiare, perché tutto il resto sono i fornitori che vanno onorati, il mutuo va onorato, tutto va onorato. Poi quando sentiamo invece, lei parlava prima di differenza fra, non sono differenze, sono due mondi paralleli, quello politico e anche quello che viviamo noi. In primis tutti i giorni ti alza il mattino, apri gli occhi e dici oggi devo trovare la forza per andare a lavorare, la forza per aiutare mia figlia, la forza per pagare il mutuo, e poi in realtà arriva una telefonata dalla banca, siamo fuori fido, un fornitore non ha pagato e non hai soldi per un cliente non ha pagato e non hai soldi per pagarci, magari è un tuo cliente da 30 anni che ti ha sempre pagato, e cosa fai? Vai a fare un decreto ingiuntivo? Non puoi. Cioè, sono tante, ma veramente tante le nostre difficoltà che viviamo tutti i giorni. Io sono una di quelle persone che normalmente al suicidio ci penso una volta al giorno. Poi forse sono vigliacca, non ho il coraggio di farlo, o semplicemente guardo mia figlia negli occhi e dico non posso lasciarle un peso così grosso. Io dottore aiutavo anche un pochino, per quello che mi era concesso, i miei genitori che sono molto anziani, a fare un minimo di spesa, perché hanno una pensione al minimo entrambi. Io mi vergogno oggi perché non riesco neanche a fare questo, e tutti i giorni sono 12 ore, bene vada che ho ancora i soldi da mettere il gasolio nella macchina per andare a fare le visite ai clienti, per riuscire a tenere in piedi questa azienda che ha esattamente quest'anno 30 anni e sulla quale ho creduto al punto di mettere un'ipoteca sulla mia casa, piccola casa di proprietà, per mettere in banca la liquidità necessaria a poter sopravvivere. Quando poi sentiamo, come giustamente dice lei, la l'IMU solo per il 2012, l'onorevole Bersani che dice no, noi siamo riusciti invece a togliere il ticket ai disoccupati, stiamo ancora parlando di campagne elettorali. Purtroppo devo darle ragione, Donatella, devo darle ragione. Non è assolutamente vero, queste sono campagne elettorali, siamo vicini alle elezioni, allora chi da una parte dice no, non vi preoccupate, l'IMU sarà solo per il 2012, e invece sappiamo tutti che non è vero. Donatella, devo dare ragione e devo dire che poi credo che i partiti avranno una sveglia, e dopo le amministrative bisognerà che iniziamo a ragionare anche chi la pensa come me cosa fare, devo dire la verità. Comunque la distanza tra tutto questo, pagate intanto poi si vedrà. Il dato di febbraio degli ordini, a febbraio gli ordini per le imprese italiane sono scese del 13,2% dopo il meno 5,6% di gennaio, meno 13,2%. Altro che dire la Grecia, noi la Grecia no, in Grecia sì che si succedono, meno 13,2%. Di chi è la colpa? Governo Monti, dei tedeschi? O è del tossicodipendente che non stai curando? Io temo che sia così. Certo, è diventato tossicodipendente perché te lo hanno consegnato mentitori incapaci negli lunghi anni precedenti. Io vorrei che fosse chiara questa cosa, che il giudizio sugli anni di inattività di chi aveva promesso di fare le cose che non ha fatto pensando solo ai suoi fatti non è mutato, e non è concepibile nemmeno avere un giudizio sul governo attuale che sta lì da 4 mesi proporzionato in durezza a chi c'è stato anni e anni. Questo è fuori discussione, ma è maggiore la delusione quanto invece maggiore era l'attesa. Maggiore e più grave è la delusione quanto maggiore è lo svincolo dagli interessi politici immediati, dichiarato almeno da Monti e dalla sua squadra. Maggiore è la delusione quanto più alta è la certezza di avere a che fare con gente che conosce i numeri reali e comparati dell'economia italiana e di quello che succede sui mercati. Neanche da loro possiamo aspettarci ciò di cui c'era bisogno per fare quello che hanno fatto i grandi paesi europei di origini, ordinamenti, storie, tradizioni diverse, ma che tutti, dalla Polonia, dalla Svezia, alla Germania, hanno fatto la scelta di diminuire la spesa per diminuire le tasse, non la scelta di mantenere tutto uguale senza cedere attivo patrimoniale, dicendo che un debito pubblico di queste proporzioni si risolve solo mettendo ancora di più le mani nelle tasche degli italiani. Questa scelta è radicalmente sbagliata. Me la potevo aspettare da incompetenti, da ignoranti o da politicanti, ma adesso è diventata incredibile per gli effetti di accelerazione del deterioramento delle condizioni dell'economia italiana che ha, di accelerazioni della crisi assoluta. Allora, vediamo un pochino un'altra lettera, questa di Giuseppe Fagone, che ci scrive da Verona, provincia di Verona. Diplomato a geometra, 68, gravi sacrifici della mia famiglia, lascio la mia città, Grosseto nel gennaio del 70, arruolato in marina. Salto perché la lettera è molto lunga. Nel 2000 ho accettato l'incarico di direttore amministrativo e finanziario presso un'azienda di Verona. Dopo 3 anni sono diventato amministratore delegato e direttore generale. L'ho lasciata quando, nell'aprile 2007, sono intervenuto divergente tra me e i soci nel futuro della stessa. Con l'arrivo della crisi le consulenze sono state le prime a essere tagliate e io mi sono ritrovato di colpo, perché consulenza faceva dopo l'amministratore delegato, dopo una vita vissuta a lavorare, ci dice Giuseppe, e facevo 50-60 mila chilometri l'anno, mi sono trovato a casa ad accudire gatto e pesciolino rosso, a inviare pur curriculum senza ottenere risposta. È arrivata così anche la mia di crisi, mi facevo mille domande, sempre le stesse, ripensavo alle stesse cose realizzate tutti i giorni, ai livelli massimi raggiunti e a che cosa avevo perso. Poi via via la depressione, l'orlo superato della depressione, è vero, l'ho superato grazie soprattutto a mia moglie, che è infermiera professionale. Guadagnavo bene un tempo, di colpo sono finiti i lavori e i compensi. C'è stato un periodo in cui mi sono sentito veramente inutile. Però devo dirvi la verità, dice Giuseppe, non ho mai pensato di farla finita, anche perché credo in Dio, ho sempre creduto nella mia possibilità. Non ho mai voluto dare dispiacere che avrei creato a mia moglie e a mia figlia, che mi avevano visto primeggiare e oggi no, ma che di sicuro, se mi fossi sparato, avrebbero avuto una delusione peggiore. Tra l'altro a me non era mai capitato di licenziare nessuno, io me ne vantavo, continua Giuseppe, non avevo mai avuto noia con il fisco, né personalmente né con le aziende che ho onestamente servito. Oggi i soldi non ci sono, e che devo dirvi, i soldi però non sono più al mio primo posto. Ecco, io posso dare un piccolo contributo, dice Giuseppe, alla vostra iniziativa su Disperati Mai, radio24.it, e il contributo è che io e mia moglie abbiamo aiutato nostra figlia ad aprire un negozio che non fa grandi numeri, ma dopo 3 anni e mezzo è ancora aperto, e con la crisi non è un risultato da poco. Abbiamo autoridotto, grazie a mia moglie, i nostri consumi, il nostro livello di vita, molto, molto, molto sostanzialmente. Ritornerò a lavorare in azienda, avrò un incarico, è possibile, ma ho l'obbligo di non crederci. In fondo ho 62 anni, e 62 anni per un ruolo di manager da una parte non dovrebbero essere tantissimi, visto che l'orizzonte di vita si è molto spostato, ma dall'altra in Italia non è così. Allora, a tutti coloro che vedono nero, scrive e conclude Giuseppe, io dico di non cedere alla disperazione, di avere consapevolezza che la salute è il bene più importante, come si dice in Italia, anche se con pochissimi soldi in tasca, voglio dirvelo, si può campare. Quanto al disonore perché nel proprio ambiente non si è più on the top come un tempo, conclude Giuseppe, guardate negli occhi chi avete intorno e pensate che l'onore vero è il poterli guardare, e per quanto li abbiate disperatamente delusi, continuare a guardarli sarà sempre meglio per loro che non guardarli più. E io ringrazio Giuseppe per queste parole. Allora, eccoci tornati in studio. Si chiede il professor Victor Huckmar, fiscalista di Genova, uno dei più grandi della scuola italiana, in una sua intervista oggi a un quotidiano. Il paese sta precipitando al 158esimo posto al mondo per affidabilità giudiziaria e al 134esimo per la fiscalità. Con un simile contesto, come attirare gli investimenti internazionali? Beh, insomma, io qualche ideuzza ce l'avrei, a dire la verità. Certo, figuracce incredibili come quella del ticket che devono pagare i disoccupati e il governo che fa marcia indietro dicendo per l'ennesima volta che si è trattata di una gaffa andrebbero evitate. Certo, andrebbe e va apprezzato la promessa di Corrado Passera di iniziare a liberare un po' di miliardi per il pagamento dei debiti commerciali che lo Stato ladro, oltre che tossicodipendente, non pagava alle imprese per decine di miliardi di euro. Ma il ladro non perde la sua pessima abitudine, perché la Spagna, che sta messa peggio di noi, un altro paese che monti a dita come la Grecia, come l'esempio, che naturalmente l'Italia ha tutte le possibilità di non seguire, e bisogna apprezzare il fatto che grazie a questo governo noi non stiamo seguendo quella china, la Spagna intanto ha messo a posto con l'attuale governo Rajoy un meccanismo per cui il problema analogo dei mancati pagamenti dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche alle imprese viene garantito con un meccanismo di sconto in banca del debito, che però è prosoluto, cioè resta lo Stato e le amministrazioni pubbliche a essere garanti di fronte alle banche che anticipano alle imprese il pagamento del debito. In Italia il meccanismo di cui si è discusso ieri sera nell'incontro tra associazioni datoriali, ABI e governo con Corrado Passera, che va apprezzato perché almeno però si occupa del problema a differenza del predecessore, è un meccanismo che non è prosoluto ma prosolvendo, con le imprese che restano garanti di fronte alle banche, il ladro tossicodipendente Stato pessimamente curato da medici che lo assecondano invece che ammettere in una bella comunità di recupero, continua a essere ladro. Un'altra bella cosa ci è venuta in mente ieri apprendendo una notizia, e una notizia di cui che chiediamo adesso a commentare con il sindaco di Calalzo di Cadore, provincia di Belluno. Il sindaco si chiama Luca De Carlo, e che cosa ha fatto Calalzo di Cadore? Ha deciso di non avere più bisogno di Equitalia, ha deciso che farà in proprio. È così, signor sindaco? Buongiorno e grazie innanzitutto di stare con noi qualche minuto. Buongiorno, grazie a voi. Sì, è così. Sostanzialmente avevamo la riscossione, sia quella ordinaria di ICI e TARSU, ma anche delle multe, sia quella coattiva, cioè di chi non pagava, e abbiamo deciso prima che l'ordinaria la facevamo noi, perché scadeva la convenzione a fine 2010, e quindi già un risparmio per le casse del comune, in comune di 2200 abitanti, un risparmio intorno ai 12.000 euro l'anno. Quindi ben vengano i tagli quando c'è sperpero nell'amministrazione pubblica, perché noi abbiamo anche il dovere di intervenire e cercare di portare all'interno dell'amministrazione quello che riusciamo a fare oggettivamente con i nostri dipendenti. E poi dopo, l'anno scorso, anticipando di fatto quella che è una legge dello Stato che dice che i comuni possono disfarsi di Equitalia anche per la riscossione, quella di chi non paga, per essere un po' più franchi, abbiamo anticipato e la facciamo addirittura dando in affidamento il servizio, classica esempio di unione e unificazione dei servizi che nei comuni piccoli di montagna rappresentano la soluzione per guardare il futuro in un mondo che è oggettivamente cambiato, la diamo ad una comunità montana che addirittura non è nemmeno la nostra, però è strutturata perché ha usufruito intelligentemente di un bando regionale, è strutturata per fare un servizio di riscossione. Quali sono le grandissime differenze, a parte appunto il risparmio? Beh, sono quelle di un rapporto decisamente differente, e io dico più umano, rispetto al cittadino che magari è in difficoltà, perché è inutile che ci nascondiamo. Lei giustamente prima ha detto che non è vero che la crisi non esiste. La crisi esiste, e i primi che se ne accorgono sono, proprio per essere i primi più vicini, i sindaci e i parroci, perché quelle sono le prime due, i primi due ammortizzatori sociali in cui uno si rivolge nel momento in cui ha difficoltà. Quindi noi abbiamo deciso di monitorare quello che è la situazione di disagio prima che la situazione di disagio diventi assolutamente ingestibile, e quindi con un contatto assolutamente più umano. Questo non significa che non si debbano pagare le tasse, perché io non sono come Paolo Schioppa che diceva che le tasse sono belle da pagare. Cioè, le tasse sono una gran rottura di scatole, ci mancherebbe, però credo, e è testimoniato anche dai fatti, che dal 2010 la percentuale di chi paga direttamente senza ritardi la tassa sulla TARSU e sull'ICI allora era maggiore di quando arrivavano le cartelle di Equitalia. Significa che quando qualcuno ha la percezione di pagare servizi comunali, e di questo lo Stato se ne approfitta, perché oggi fa fare a me il gabelliere per conto terzi, nel senso che manda me a riscuotere l'IMU da poi girare allo Stato, capisce che la gente paga più volentieri le tasse comunali, forse perché rompe, prende il sindaco, lo tira per la giacchetta, però vede magari i servizi che il comune eroga direttamente sul proprio territorio, e questa non è una cosa da poco. È in effetti il principio del beneficio, diceva il vecchio grande padre liberale Luigi Einaudi, dovrebbe essere il principio cardine dell'ordinamento fiscale. Il principio del beneficio è quello appunto, certo, che il realizzare il prelievo e anche la spesa del più del prelievo il più possibile vicino agli occhi di colui che è interessato al prelievo consente di misurare, determinare meglio, di apprezzare direttamente l'utilizzo di ciò che esce dalle tasche al contribuente. Quindi io chiedo a tutti i sindaci in ascolto di seguire l'esempio di Calalzo di Cadore, di riflettere se nelle loro possibilità, e ringrazio il sindaco Luca De Carlo perché è possibile deequitalizzarsi, per così dire, non, invece di quegli inutili cartelli su comuni denuclearizzati che da decenni mettono l'amministrazione comunale, un comune deequitalizzato potrebbe essere una buona idea per contribuire a un rasserenamento dell'atteggiamento dei suoi contribuenti. E lo dico per evitare, perché oggi riniziano gli insulti, erano parecchi giorni che non li vedevo, riniziano gli insulti sugli sms di chi mi dice che sono un servo senza idee, dei miei padroni responsabili di affamare l'Italia. Vabbè, miei padroni, ma chi sarebbero i miei padroni? Ah, povero me. Io qui finisco alla gestione separata al 33%, ragazzi, non potendo totalizzare i contributi che ho pagato in fondi diversi nella vita. Sono servo dei padroni. Mi scappa veramente da ridere. Detto questo, grazie al sindaco di Calalzo di Cadore, sentiamo Roberto dalla provincia di Varese. Che ne pensa? Roberto, prego. Sì, buongiorno, dottor Giannino. Io fortunatamente non faccio ancora parte della schiera dei disperati, ma credo che se passa la legge sul lavoro come ho sentito, potrei farne parte. Io ho una società di progettazione, lavoro con collaboratori a partita IVA, il mio tipo di lavoro è molto saltuario, ci sono lavori che durano un anno, però può essere che io per 6 mesi non abbia lavoro. Fino ad oggi non è mai successo e il mio impegno è uguale tra garantire lavoro a me e garantire lavoro ai miei collaboratori. Se fossi costretto ad assumerli e dovessi rimanere un anno senza lavoro, io di sicuro potrei fallire. Tenga presente che il mio lavoro è rivolto molto verso l'estero e costituisce un fenomenale moltiplicatore di lavoro per l'Italia. L'ultimo contratto stipulato da noi ha portato aziende italiane a avere contratti 10 volte il nostro, di forniture dall'Italia verso l'estero. Questa è la situazione. Poi io credo che se dovessi avere dei problemi con la mia professionalità, il lavoro per me lo troverei. Però probabilmente il problema è per chi impiega. Ecco, questo è solo una delle conseguenze eventuali del giro di vite sull'ingresso al mercato del lavoro per le tipologie di lavoro diverse da quelle a tempo indeterminato. Ne abbiamo discusso anche ieri, c'è il presidente Marcegaglia, i segretari CISL, CGL, UIL. Vediamo in Parlamento come finisce la storia. Io la penso come lei, gli interventi sono motivati dall'idea di far lotta al precariato, le conseguenze però sono una tale stretta che diminuiscono sensibilmente per le piccole imprese l'accesso a strumenti alternativi dal tempo indeterminato per la domanda di lavoro, conseguenza più disoccupati. Questo è quello di cui sono sicuro, a cominciare dalle mie due microsocietà, succede esattamente la stessa cosa. Andiamo al traffico. Ed eccoci tornati con i Doors, che mi sembrano la buona colonna sonora per una raffica al volo di lettere nuove. Paolo Girotti, di che cosa scrive? Ci scrive dal comune di Chiusi, in provincia di Siena. È una lunga storia. Paolo Girotti ha 29 anni, è laureato e titolare di un'azienda agricola, l'azienda agricola Girotti, e da 10 anni ci ha lavorato sopra con un progetto elaborato di espansione per avere accesso ai contributi anche previsti dal regime dei contributi agricoli europei. Quindi ha presentato al comune in provincia un dettagliato piano di sviluppo agricolo della sua azienda, delle strutture, dei laboratori, della rimessa attrezzi, della stalla, eccetera eccetera. In 10 anni, la lettera è molto lunga, io la sto riassumendo, in 10 anni non è riuscito a venire a capo delle autorizzazioni, non ha ottenuto quindi la possibilità di avere accesso a alcun contributo, e adesso rispetto all'iter accumulato di queste amministrazioni locali inefficiente, che lui personalmente lamenta, si è trovato obbligato a demolire tutto, a dare via gli animali, di conseguenza a chiudere l'attività. Il comune adesso gli gli fa capire che potrebbe rilasciarci le concessioni necessarie solo appunto dopo aver demolito, aver chiuso tutto, e lui dice: io che cosa devo fare? Dire addio al mio sogno, questa è l'Italia delle autorizzazioni pubbliche. Questo è un altro aspetto, oltre al credit crunch, oltre alla pretesa del tossicodipendente Stato con le tasse in crescita, che è uno degli altro aspetto fondamentale delle difficoltà terribili del fare impresa nel nostro paese. La chiusura della lunga lettera di Paolo Girotti è: con grande rammarico, a causa dell'inadeguata amministrazione della città, la mia azienda è costretta alla chiusura, come me molti altri imprenditori di chiusi sono costretti a una migrazione delle loro aziende, uffici, centri commerciali a Città della Pieve, qui vicino, che è più attento alle esigenze del cittadino e allo sviluppo del paese. Resta il fatto che io ci ho creduto e chiudo. Cosa devo fare? Devo fare come il mio coetaneo e collega di Arezzo, un altro che si è suicidato? No, non lo devi fare. La lezione per te, Paolo, è che nel mondo aperto e globalizzato si vota con la testa, si vota con le mani, cioè si esprimono i voti tanto alle politiche quanto nelle assemblee se si è soci di un'impresa, ma si vota anche con i piedi, cioè bisogna essere pronti ad andarsene, appunto, laddove ci sono migliori condizioni per realizzare capitale, lavoro e tecnologia. È così che funziona ed è giusto che sia così. Io l'ho sempre detto, ho commesso forse l'improprietà di tornare in questo paese scommettendoci, può essere che salutandovi per la mia inutilità da questa radio poi alla fine decida anche di andarmene dal paese, perché è la cosa migliore, perché è inutile quando si è mosca bianca e non si sposta niente e altrove ci sono i posti dove le cose sono organizzate come pensi tu, levi il disturbo sia chi ti insulta qui, sia chi pensa che tu sia troppo estremista, critichi troppo Telecom, critichi troppo gli incumbent energetici, critichi troppo il governo e non sei mai contento e sei estremista, ti lasci sfuggire toni di troppo, ma insomma questa poi è una cosa di sistema che parla in altro modo, ma per carità siamo ottimisti, ma diciamo che il sole splenderà. E 5 anni che possiamo essere ottimisti per 5 anni e non capire che da questa crisi profonda l'Italia uscirà ancora peggio di come è uscita prima, se non cambiamo marcia, quando è possibile cambiare marcia? Questa è la mia semplice domanda a chi mi dice che sono eccessivo, ultronio, coi toni sbagliati, lunatico, pazzotico, troppo liberista, troppo per il mercato, troppo per qua, troppo per là, a furia di essere invece moderati, rotondi, assumere provvedimenti mentendo, dire che è solo per una volta e poi più avanti, negare che per gli amici degli amici lo Stato si piglia tutto, si è preso il vostro passato, il vostro presente e pure il vostro futuro. Roberto da Milano, come la pensa Roberto? Sì, pronto, buongiorno Giannino. Io sono rimasto scandalizzato circa le affermazioni di Monti che ti dice: in Grecia 1500 suicidi, quindi in Italia sono molto meno, va tutto bene, madama la marchesa. Sì. Quando il problema di uno Stato, il principale compito di uno Stato è quello di tutelare i suoi componenti, i suoi abitanti, non di spingerli al suicidio. Qui sembra il mostro mitologico che mangia i suoi figli per alimentarsi e automantenersi. Tutto questo conferma una teoria postulata da un ex vicepresidente americano nel 1850, che diceva che quando uno Stato compie uno Stato diventa invasivo e pervasivo nelle sue articolazioni, tende a creare due categorie sociali, i produttori di tasse e i percettori di tasse. I percettori di tasse sono coloro che campano sulle tasse prodotte dagli altri, quindi lei è un illuso pensando che questo governo diventi più snello nelle sue articolazioni, perché questo governo è l'espressione massima della burocrazia statale. Metà dei componenti sono grancomi di Stato, gente che ha sempre campato sulle tasse degli altri. Roberto, i padroni griffi che ci dicono che infatti che i dipendenti pubblici loro non devono essere soggetti all'articolo 18. Per tanti versi il suo tagliente giudizio, Roberto, me lo merito, devo dire la verità, perché me lo merito e penso di farne un buon utilizzo, magari mettiamo qualcun altro prestissimo al mio posto, che è meglio, a dire la verità. Allora, altri pacchi di lettere a lunedì, però c'è anche un ospite, perché dobbiamo parlare di un suo libro, ma oltre all'ospite, lettera, perché io continuo ad andare avanti così. Intanto, nei limiti del possibile, buon fine settimana a tutti, a lunedì. 9 in punto.